the dictator of Tomania, the conqueror of Austerlitz, the future emperor of the world. Ero così fiero di essermi arruolato. Ho sempre appoggiato i progetti della NATO. Il mio sogno più grande da quando sono nato era combattere per la libertà del mio stato. Quindi sono partito per la missione ISAF. Ho lasciato moglie e figlie via in Afghanistan. Ho sparato, ucciso, bombardato, distrutto. Di brutto fa brutto, c'è una tenere di lutto. Lottare con te stesso, vedi i bambini piangere, chiedere aiuto a te che ha distrutto tutto. Sensi di colpa, di colpo, perdere un collega amico che ti stava accanto. Sentire la morte addosso e seppellirla in un fosso. Capire che non ha senso, tutto ciò è pazzia di un sistema malato. Ma capirlo troppo tardi e morire da soldato, amore scusa tanto. Ti amo per sempre Marco. Soldier, don't give yourselves to brutes. Men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think or what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men, machine men with machine minds and machine hearts. Murdering for oil, protecting the poppy fields. Men and women oblivious to the facts of why they killed. They were told their freedom was being threatened. Now they're fighting on the front line, learning a lesson, a very harsh one. Psychologically manipulated to carry out the orders of a mercenary we must all learn about. Circulating propaganda through media alliances. Paralysis of the mind is the goal of the globalists. The people be the people, divide and conquer the secret religion. What ammunition is Nazis making decisions? States are only events and it's multicultural prison. The tailing was made to distract hypnotism. What happened to being born and being free, living out life with equal opportunities, but instead we're controlled by these family bloodlines. Herded around like cows, we're killed in a slaughterhouse. Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful. Guarda tutti intorno, vogliono primo, secondo e contorno. Controllo del centro, ma non del contorno. In fondo la guerra è pulizia del mondo. Che sporco di merda, più ci ritorno. La verità in fondo non vedrà mai il giorno. Prima c'era un forno, ora c'è un bisogno mascherato da sogno. La democrazia in cambio dell'oleodotto. La pace col botto, la vita col morto. La finta trattativa che non andrà mai in porto. I stessi innocenti quali far sempre torto. Chi aveva 9 figli ne hanno ammazzati 8. Il marito cotto con le bombe al fosforo. Moglie e figlie nelle loro case le fottono. Quel che nascondono crea odio profondo. Un giorno i colpevoli pagheranno il conto. Let us fight for a new world, a decent world, that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age a security. By the promise of these things, brutes have risen to power, but they lie, they do not fulfill that promise, they never will. Dictators free themselves, but they enslave the people. Now let us fight to fulfill that promise. Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason. Democracy! Let us all-